A qualcuna piace il calcio e a qualcuna piace la Formula 1! Domenica è tornata e con lei i nostri racconti di vita sportiva al femminile. Nella puntata di oggi vogliamo ripercorrere la storia di Maria Grazia Lella Lombardi, campionessa di automobilismo tra gli anni 60 e gli anni 80, un periodo in cui le donne non erano presenti come atlete in questo settore. Grazie al libro di Cristina Falco dal titolo Più brave per forza, che oltretutto consigliamo vivamente, abbiamo avuto la possibilità di conoscere questa grande donna attraverso gli occhi di parenti e amici. Lella Lombardi nasce a Frugarolo, un piccolo paese immerso nella pianura padana alessandrina. A 13 anni già guidava e a 18 portava il camion della ditta di famiglia, trasportando la carne fino in Riviera Ligure. Nel 1965 gareggia in Formula Monza a soli 24 anni e da lì i traguardi si susseguono. Nel 70 vinceva il campionato della Formula 850 su una Biraghi, nel 71 conquistava il titolo inglese della Formula 4 Messico, oltre a partecipare alla Formula India e Daytona in America. Nel 74 arrivava quinta nel campionato di Formula 5000 e nel 1975 iniziava a gareggiare nel World Sport Car Championship. Il 20 luglio del 1974 Lella esordì in Formula 1, il sogno di tutti i piloti. Anni dopo dichiarerà che la Formula 1 non è una cosa di cui i piloti amano parlare, perché uscire da quel mondo significa che qualcosa non ha funzionato. In Francia, pochi anni prima del suo esordio, un direttore di gara aveva vietato la partecipazione a Maria Teresa De Filippis perché l'unico casco che deve mettersi una donna è quello del parrucchiere. Questo era l'ambiente in cui Lella si era trovata a portare avanti la sua passione. Era a Monza in Formula 1. Fittipaldi, mi dà un motore! Finalmente c'è un motore buono! Con 50 cavalli più del mio! Giuseppe, amico di sempre, racconta. Mi aveva telefonato entusiasta di questo motore. Pino, la macchina vola! Le hanno boicottato la macchina. Anche lì a momenti si ammazza. A un certo punto la macchina non frenava più. L'ambiente delle corse era un ambiente ostile per una donna pilota che dimostrava di poter avere buoni risultati. Quando hanno visto che poteva piazzarsi perché a metà gara era già al terzo posto e aveva anche superato le due McLaren, le hanno sabotato i freni. I mass media hanno dato poco spazio alle gesta di Lella. Forse a livello locale è uscita qualche notizia, ma a livello nazionale proprio no. In Inghilterra invece hanno molte informazioni. La chiamavano la Tigre di Torino. Nel 1988 si ritirò dalle corse. Da 2 anni aveva iniziato a lottare contro un tumore. Dopo aver affrontato la prima operazione era corsa in Spagna con i punti ancora freschi per disputare un'altra gara. Purtroppo quest'ultima battaglia non è riuscita a vincerla. Lella Lombardi, all'età di 51 anni, moriva a Milano il 3 marzo 1992. Il nostro tuffo nel passato finisce qui, ma vi aspettiamo domenica prossima con altre vite e altri traguardi di atlete che hanno fatto e continuano a fare la storia dello sport femminile. Da Chiara e Silvia non è mai tutto, ma cercate di farvelo bastare, almeno fino a domenica prossima.